And my name is Ragnar Pfizer. Che le cose in questo paese vadano male si capisce dal fatto che cominciamo una puntata di Ragnar Pfizer senza la consueta focaccia. E anche del tuo taglio di capelli. Quella brevettata, e quello... anche da, quello, sai, su quello ci si può fare poco, insomma. Si denota proprio. Io inviterei qualsiasi ascoltatore dotato di buona volontà di allungarci una focaccia in Ma anche rosso no, fiorentino anche no, dai. Ci si sciupa dopo la scena. Ai bei tempi, quando facevo la radio in diretta la mattina presto, spesso... Ti portavano le paste? Mi portavano le paste, ma veramente. Ma anche molto buone delle volte. Tra il serio e il faceto, soprattutto tra il faceto e il faceto, direi. Tra il criceto. E il criceto. Comincia un'altra puntata di Ragnar Pfizer in diretta sulle frequenze di Controradio. Già abbiamo diversi ospiti in the building. Ci sono i brother schierati proprio. Ma qualcun altro, guarda, la luce lampeggia, sta arrivando. Qualcuno vada ad aprire il portone. Intanto Bubu è già messo lì in postazione. La console per i primi 20 minuti è tutta sua. Poi nei prossimi break vi raccontiamo qualcosa a proposito di prossime uscite che riguardano i nostri eroi, ma anche prossime serate, in questo weekend sarà molto intenso, anche lo scorso, niente male, mi hanno detto fuoco e fiamme venerdì sera al Cargo. Rowdy in pista. Sì. Schoolboy e Blackheart. Basti, serata buona, dai, ci sta divertito. A proposito, mega big up a Blackheart che in queste ore decisive ne ha proprio bisogno. Guarda vecchio, guarda dietro di te. Attenzione! Ha funzionato, funziona sempre. Tu sottovaluti le potenzialità della radio in diretta, capito? Tu esprimi un desiderio in diretta. Non si Ma... fa mai, capito? Vabbè. Passiamo oltre. Passiamo oltre, vi facciamo sentire Bubu in the mix e poi rientriamo a raccontarvi qualche altra fondamentale cosa delle nostre. Thank you. split. Food in the storehouse and nobody wanted. High school player, played out monthly. Fifth year reunion, looking straight musty. Crystal ball, few gins to get loot up. Baby food money, cop get right to shoot up. Law of averages, man-made savages. Diseases, not from sneezes, but on bandages. For what your marriage is, signed, sealed, sealed, delivered. A divorce so vivid, the source you inspires, not much to live with. No matter how exquisite you think you can kick it. Willie the wino, philosopher, gentleman. Give him a time slot, shit on Letterman. Had a younger brother that danced like Sammy D. Lived in Tuskegee, got caught in a conspiracy. Man, y'all ain't even hearing me. So stick up my hands in the air, big bass frequency. Sounds so dope. $1 million audio, never be broke. Sever all ties from the clones and the jokes. Watch their movements and scuttle that boat. Scuttle that boat. Scuttle that boat. Scuttle that boat. What is this? Liquor store profiting from your addiction. Why the weed from the earth bring quick conviction? Mass affliction, messed head phased out. Baby 6 days in the crib, cause you dazed out. No lazy days of summer. Glue, gurgle, a hummer. Exchange funds, never exchange numbers. The P is free, just compliment the baby box. Little fox in the hen house with no locks. 2 G's with shots of Botox. So your lips expand and take in the whole band that rocks. That's why we all burn berries. Misses and minuses, bust that cherry. A scene from the walk and unconscious is very telling. The proof is in aggression of the selling. You dive head first, everybody yelling. Get out of the water, the world's out of order. They signing up to slaughter the sheep by the borders. Little Eichmanns follow orders with speed. Cutthroat their own fam, take the lead. When they start to bleed, they just shake their head. Could have been standing here with me instead. You just... Sound so dope. $1 million audio, never be broke. Sever all ties from the clones and the jokes. Watch they move, man. Into it. It's Gilda Simpson, Eric Lau, Detroit City. Let's go, phenomenal. Most of these rap cats are comical. I laugh at them, scream, run your nav at them. Stones throw on the jersey of the man batting. Home run hitter, dope line spitter. I got a team of MCs from the big leagues. Push big whips, burn big weed. Squeeze big clips, make your wigs bleed. Wild out like a thug on 6E's. Haters gon' hate, but I succeed. My success supplies the stress. And what's worse, I'm flyly dressed. We give it to you raw, fam, YBS. Don't try GS, I'm the wrong tree to bark up. Rolling backwoods to spark up. Pocket full of green, hot 16s. Trust me, you ain't seen a block this mean. No, touch me, guarantee I pop this thing. It must be money, man, I got big dreams. It's hip-hop till I D-I-E. Till I die. Scream it out every place I be. Worldwide. Don't believe everything you see. Open your don't eyes. Do it just for me. Nah, it's for the D. For the who? For the D. For the who? For the D. For the who? For the D. For the D. My words some way might affect your day. You can see it when I talk, inject and play. Money got your friends looking sideways at you. Inebriated speeding on the highway faster. Watch me. Headed who knows where. Blowing kush out the window into the cold air. I'm so rare. You can search far and wide and never find another spitting bars this live. Guilty, reppin' for the dark with pride. Mouthpiece does it for his dogs that died. Dilla, when I got the news I cried. Big crew, forever we cool, let's ride. I never forget you, fam. Yeah, I speak from the heart, I miss you, fam. I'm man enough to say it, you rep for the home team. And I remain to do the same. I'm taking all bets, you choose the game. It's hip-hop till I D-I-E. Till I die. Scream it out every place I be. Worldwide. Don't believe everything you see. Open your don't eyes. Do it just for me. Nah, it's for the D. For the who? For the D. For the who? For the D. For the who? For the D. For the D. We'll be right back. and a dog over to every force and a dog over to every force and a dog over to every force and a dog over to every force and a dog over to every force and a dog over to every force. Lento e possente del buon Colossius in forma smagliante, caro il nostro Paolo Lil Peach, anche perché si sta ciao allenando me. Buonasera, ciao. È venuto sulle nostre frequenze, dico il nostro si sta allenando insieme a Biga per un appuntamento importante del quale parliamo subito il venerdì prossimo, venerdì 22 aprile all'Extre. Extre Firenze, centro d'arte contemporanea, quindi Viale Giannotti, ingresso libero, è vero, non è una notizia sbagliata, so che è difficile crederci, ma è rigorosamente libero. Per uno dei nomi dei quali si parla di più nella scena internazionale post dubstep, ce lo possiamo permettere questo sostantivo? Pinch. Il padron della Tectonic, etichetta che ha fatto uscire per esempio Scientist Launch Dubstep in Outer Space, discone remix speciali. Discone con quante tracce dubstep originali, forse 7 se ricordo bene, 7 e 7 versioni remix fatte al contrario, no? Cioè producer dubstep all'inizio e scientist, grande mago del dub, braccio destro di Quintabbi, a remixare in versione dub le tracce originali dubstep. Da Los Angeles. Da Los Angeles con furore. Poi i nostri hanno provato anche a fare delle date insieme, ma pare che Scientist sia un tipino, come dire, un po'... Un tantino... E quindi niente, Pinch se ne gira da solo, adesso con il suo DJ set lo porta appunto a Firenze in chiusura delle Dissonant Vibes organizzate dagli amici di Switch. La serata parte alle 22 con il live degli Ether, ma adesso che dobbiamo mancano da un paio d'anni. Dire perché, eh? Appunto, Colossius e Biga ce li abbiamo tutti e due in trasmissione questa sera. E tu c'entri con loro? Io c'entro fortunatamente. Nel senso che tu alla Lil Peach, giusto? È mia e del socio Riccardo, che ora è in quel di Londra. Cos'è Lil Peach? È una piccola etichetta indipendente italiana che sta per lanciare il primo disco sul mercato. Primo EP che vedrà collaborare Ether, appunto, e Pinch. Questo sodalizio che è nato un annetto fa, diciamo. Tu praticamente hai portato Pinch in DJ set qualche tempo fa a Link. Lo portammo a Link il 23 ottobre scorso. Dello scorso anno. Ma la prima occasione fu al paesello delle Marche. Ah, è vero, il tuo paesello. Un paio d'estati fa. È vero, è vero. Lui si ricorda ancora bene quella data. Sì, lo dice nell'intervista. Lo dice nell'intervista su Mixology. Che si chiama, che si trova su Mixcloud, se la volete cercare. Poi in quella occasione si incontrarono, credo, Colossius con a Link, no? Lo scorso ottobre, sì. Giusto? Okay. È stato il battesimo di fuoco. Okay. Quindi traccia originale firmata da Ether e il remix di Pinch. Il remix di Pinch, perfetto. Data prevista per l'uscita? Si sta parlando di ottobre-dicembre. Oggi abbiamo visto un abbozzo di copertina che è spettacolare. Ok, se ne occupa direttamente l'etichetta? Matteo, cioè tu? Lo sta facendo Matteo Rivano, che Matteo è... Rivano! Eh sì. Oh, e allora mega big up che arriva direttamente in Colombia. A Bogotà. A Bogotà per la precisione. Stampa 12 pollici? Esatto. Ok, vinile, quante vinilone tracce in tutto? Pesantissimo, 3 da un lato, Ether, e remix di Pinch dal lato da B. Solo sul lato B. Ok, fantastico. Per fare un check, Lil Peach ha già una pagina, c'è già un gancio web da dare. Lilpeach.altervista.org. Perfetto. Se invece volete sapere di più a proposito dell'evento di Pinch ed Ether venerdì prossimo ad X3, cercate su Facebook, l'evento è già molto frequentato, la bacheca è inondata di messaggi, link, e soprattutto richieste di informazioni, accorrete numerosi, anche perché è un'occasione così. Ether Live, Pinch DJ Set, gratis, dalle 10 ad X3, vi aspettiamo lì. Intanto, il figliol prodigo tornato da un weekend a Londra, sicuramente ascolteremo anche qualcuna delle nuovissime tracce che il buon Duccio ha comprato da quelle parti. Duccio per voi nei prossimi 20 minuti a Ragnan Paisa. got sucked into a culture, living like you do. Spend by the hour, living like you do. Can't make ends meet, living like you do. This life will turn you sober, living like I do. The tension builds, as the tension builds, as the tension builds, as the tension builds, as the tension builds. I'm in you, I'm in you. Such a hurry, so much time to lose. Staring out my window with Io sono andato così a senso, ho detto suonerà un sacco di quelle robe a cui avrà dato la caccia nel weekend londinese. Ma questo so passare, ma vabbè, andare a Londra è come tipo, no, andare a pescare nel lago di Chiocchio, cioè, non è che... C'è molti pesci? Basta passare quel retino, no? Ah, ok. Dalle mie parti lanciavano prima le bombe, prima di passare. Cioè io sapevo già cosa dovevo prendere, sono da olio. Mirato, bro. Prima di partire con la bamba, con le solite bischerate. Sì. Diciamo una cosa seria. Una cosa seria, un saluto ai media. Oh. Guarda, c'è un sacco di gente che vuole fare i complimenti a uno dei grafici che ci piace di più ultimamente. Perché il grafico che fa tutte le copertine. È colui che ci fa anche le copertine. Esatto, fa tutte le copertine di Ragnar Paisa, quelle che trovate su ragnarpaisa.blogspot.com ogni martedì pomeriggio. Almeno da ogni martedì pomeriggio in poi. Le copertine sono sue, ma non solo. Il nostro si sta prodigando ultimamente con ottimi risultati anche per i flyer degli eventi targati Overnights. E a questo proposito vi anticipiamo anche quella che sarà la prossima importantissima data che Overnights organizza qui a Firenze, il prossimo 6 di maggio. Dovrebbe essere un venerdì, se la mia memoria non mi inganna, con l'ottimo Dizza, che è uno dei beatmaker più in vista in questo momento nel panorama europeo. Lui è russo. È russo. Già annunciato nella prossima edizione del Sonar Festival. Mm-hmm. Il Sonar mi ha fatto venire in mente che non ci dimentichiamo mai di ricordarvi e consigliarvi di ascoltare anche il Ritmo il sabato sera. Mi è venuto in mente il Pizzo, che sabato scorso era a suonare con la buona Nadine, che è qui ospite. Bisogna sempre ascoltare Pizzo. Sempre. Hai visto che ha cominciato a fare questa cosa di ogni giorno mette la foto del CD che ascolta? Sai, quando uno invecchia e non sa cosa fare, se le inventa di tutte. Prima o poi dovrai diventare un ometto serio anche tu come lui. Sì, ma io sono sempre stato serio. Non vedi, guarda, ma so quel golfetto. Col golfetto dello sponsor, guarda, non mi fa parlare. No, io non vengo sponsorizzato da nessuno. No, io volevo, fra i pezzi che ho suonato, ho suonato anche un pezzo di un EP che uscirà, credo, il mese nel prossimo. Nel 2018, sì, tipo? Non lo so, forse il mese prossimo, fra qualche mese. Che è un pezzo di Funky Steps, che è un collettivo house di Londra, che è uscito anche roba recente su Hyperdub, che avevo già suonato. Ha fatto un sacco di remix, no? Sì, hanno fatto anche diversi remix. Sono un collettivo di produttori house e questo pezzo uscirà sull'etichetta loro, Forever Live Young, si chiama Face Off EP. C'è una roba tipo 4 o 5 pezzi, non me lo ricordo. Li ho conosciuti con il remix di un pezzo reggae giamaicano di, non mi ricordo se era Gappy Ranks o qualcuno di quelli lì, insomma. Può remixato essere. Funky Steps. Può essere. Basta, questo lo trovate questo sulla tracklist. È capo, l'ultimo capolavoro di Falti Dayel, che sembra Fela Kuti. C'è questa tendenza all'afro, alla circolazione. È Fela Dayel, non è Falti Dayel questo. Sempre sull'etichetta quella sua, sì, solito. No, questo no, lui di solito esce su Planet Mu. Aspetta, però che ti questo, la bomba. Ecco, forza, dilla. C'è questa tendenza all'afro, come si può capire dalla pettinatura di Duccio, tra l'altro. sì, è chiaro. No, come si può capire dalla fiammata che ho preso oggi pomeriggio. No, questo comunque di solito Falti Dayel esce su Planet Mu. Vabbè, anche su altri siti, ma principalmente su Planet Mu. Questa è stata un'uscita super limitata su Swamp 81. Stavo per dirlo. Che è l'etichetta di Lofa. Yes. Lofa e Pinch, diverse collaborazioni insieme. Pinch venerdì, sì, è uscito. Come mai ogni santo, cioè, mi sento di punto in bianco aumentare da una parte dall'altra? Perché c'è l'udito che causa vecchiaia, sì, sta andando. No, Pinch e Lofa hanno fatto un'uscita anche recente, no? Insieme su Tectonic. Sì, Pinch e Lofa e Rosca e Pinch. Una doppia traccia, esatto. Un doppio singolo di che due ho suonato anche un paio di settimane fa. Trovate il video su YouTube, il link postato sull'evento di Facebook che riguarda Pinch. Lasciamo spazio al nostro Biga per i prossimi 20 su YouTube? Yes. Ah, su YouTube lo trovano? Chi? Biga lo trova su YouTube. No, hai detto trovate il link per l'evento su YouTube. No, trovate il link di YouTube sull'evento di Facebook. capito? Ah, ok. Per il singolo di collaborazione fra Lofa Madonna, e Pinch. Cioè, te parli solo. Ormai parli solo in base a social network. Solamente. Se te li levano, ti tagli i capelli. Mi suicido, guarda. Se te li. Se te li levano, cresci.

Ale ale. Siamo arrivati un po' lunghi, ecco. Siamo arrivati lunghi. Bene, quindi? Quindi niente. Era così, un'entratina, ecco, sì, così. Giusto, un'entrata per salutare. Per rompere le scatole. Per educazione. Mi ero scordato, magari posso, giusto lo butto così, giusto di qualcosa. Buttala lì. No, che prima ho suonato un paio di pezzi dell'album di Panda Beer. Che è, diciamo, uno degli elementi degli Animal Collective. Che sì, l'album si chiama Tomboy, è uscito da una settimana e poco più. E per me è il candidato, è uno dei candidati. Ah, il disco c'avevi prima, sì. Okay, ok. È uno dei candidati ad essere il disco dell'anno. E poi Hype Williams che stanno facendo uscite limitate a sfare. Sono candidati anche loro? Sì, sì, sì. Poi vabbè, c'è la cover di Sweetest Taboo di Shade che è abbastanza un trip. Vabbè, vabbè. Bene, quindi se te ne puoi andare a suonare. Bene, me ne vado. Noi ci sentiamo lunedì prossimo. Ricordatevi di andare su http://ragnampaisa.blogspot.com e a scaricarvi la puntata. A star bene. E poi casomai in settimana guardiamo di fare anche il post del mio mix che sì, ho fatto. C'ho da mettere su pure il mio doppi post, allora, vabbè. Storia di doppi post, storia di doppi tripli post a cavalli. Bene, buon inizio settimana a tutti e ci sentiamo lunedì prossimo. Yo. Fa un freestyle, fa un freestyle, dai, fa un freestyle qui sopra mentre Tommy cerchi il disco, eh? Dai, tipo i beatbox. Tanto da Tommy è lì che sta cercando, che è arrivato proprio di corsa. Bella, voglio. Ma questa è la colonna sonora di Perino. È lei. T'ho sgamato subito. Man. Ma hai sgamato me. Vai. You. Senti le storie. Questo è per le bambine, eh. From your love, you see. but you don't give up. In my world, only you make me do for love what I would not do. Life. change that, cause I know what I want and where it's at. Yeah. What am I gonna do?